mi trovo davanti a una sorta di scultura chiamata Hybrid Radio. In realtà è una radio portatile, preso un trasmettitore radio portatile. È un'installazione di Nicole Luhillier nel padiglione lituano nella 16ª Biennale di Architettura di Venezia. Dice la didascalia: Hybrid radio opens dialogue around the possibilities of rethinking radio communication as an open tool for transmitting and receiving in order to create streams of civic communication, engagement and expression. Ovvero, hybrid radio, radio ibrida, apre un dialogo attorno alle possibilità di ripensare la comunicazione radio come uno strumento aperto per trasmettere e ricevere, per poter creare streams, che sarebbe dei fluttuazioni, no? Dei ruscelli di comunicazione civica, di engagement sarebbe, non mi viene, e poi espressione. La radio agisce come un'architettura invisibile e mobile, avendo le caratteristiche di poter rompere le barriere, i territori e i muri, e passare attraverso i muri. Capire la radio come un sistema parassitario può provvedere a crescere, a farla crescere in maniera organica e molecolare. La meta, l'obiettivo è quello di capire i potenziali della radio e delle sue infrastrutture, la sua invisibilità e le modalità potenziali per poter essere utilizzate per poter creare espressione e discussione aperte sulla decentralizzazione delle dei network di comunicazione e aprire uno stream, un flusso di coesistenza. Penso che questa sia una delle cose, dei lavori più interessanti che ho visto in questa Biennale di Architettura, numero uno perché non ci capisco niente di architettura e questo effettivamente è una sorta di operazione artistica, numero tre perché parla di radio, che è quello che facciamo qui a Coxo Spaziale. Here where the shadows dance in moonlight. Spaziale. Valeria Chiabotto, hai partecipato a questo workshop chiamato Biennale Session 2018 e ti hanno chiesto di fare qualcosa di creativo, cioè l'unica istruzione di questo workshop era quello. Secondo te che cos'è qualcosa di creativo? Qualcosa di creativo è, allora, prima di tutto scaturisce dalla sorpresa, non deve essere qualcosa di troppo meditato. Per cui me. È qualcosa di non normale, al di esatto, fuori della norma. Esatto. Ok. E poi non ci devono essere leggi ferre. Ecco, guarda che sta cambiando lo spazio, tra l'altro fa un bel rumore quando cambia lo spazio. Scusa, ti ho interrotto. Io fra l'altro mi chiedo se questo rumore è rumore reale oppure è registrato. È vero. Tu dici che è registrato? Ok. È abbastanza probabile. Perché anche di... sono blocchi, siamo davanti a una sorta di installazione architettonica dove dei blocchi di cemento salgono e scendono in maniera algoritmica. E cambiano, sì, a un certo punto ti dice quanta, a che numero, ah no, ha finito, no, ok, non ha finito, sta continuando, ne è uscita una torre, praticamente sono, quante sono, 3, 6, 9, 9 per 9, 81 torri di cemento che salgono e scendono creando dei pattern architettonici, perché prima mi ha detto che era la 51.000esima combinazione possibile. Ecco, un'altra cosa di creativo è il fatto che non esiste un campo, ovvero, secondo me, qualcosa di creativo non deve essere per forza ristretto ad un campo, cioè noi siamo alla Biennale di Architettura e, ad esempio, non è che per forza dobbiamo cercare qualcosa di creativo magari nella Biennale di Arte o... ci può essere anche qua, ci può essere anche in quella del cinema, ovviamente, cioè... Ma anche perché voglio dire, qualunque nostra scelta in realtà implica un certo tipo di creatività, no? E stavo anche pensando al fatto che comunque in questi gruppi c'erano tanti tedeschi e un italiano per gruppo. E l'unico. Ed effettivamente da cui noi forse qualcosa. Siamo condizionati dal fatto che in realtà la creatività in Italia è molto più nella norma che non in Germania. È nella norma, è vero, è nella norma. Per cui per noi è normale noi essere creativi. Abbiamo un sacco di stimoli e anche solo il fatto che le spagnole erano così, addirittura le spagnole erano così affascinate dall'architettura di Venezia, che io come una cocomera non ho saputo in realtà dire così tanto e me ne rammarico, ma... ho detto è vero, cioè noi persino abbiamo i palazzi che sono qualcosa di creativo e non ce ne accorgiamo, cioè noi viviamo proprio immersi nella creatività. Eh già. E potremmo anche sfruttare questa cosa. Veramente. E dunque il risultato finale di questo workshop quale sarà, visto che non è ancora terminato? Il risultato finale sarà che vinceranno i tedeschi. 7-1 questa volta, visto che tutti i gruppi tutti, ci sono. Tutti, esatto. Però, vabbè. Perché il campionato non è ancora finito. No, ma il fatto è che purtroppo hanno preso non come qualcosa di creativo questo workshop, cosa che invece l'ho presa io perché è stato proprio una pausa, quindi per me figurati, che bello, no? Invece loro l'hanno presa come un compito da eseguire. E questo occhio, perché potrebbe succedere anche ai tuoi studenti. Esatto. Perché invece di vedere qualcosa di creativo lo prendono come un compito da fare e boom, va tutto a ramengo. Sì, perché effettivamente la creatività si può forzare, ma fino a un certo punto. Nel senso che dei due bisogna porre limiti alla creatività, non spingerla al di fuori dei suoi limiti. Non lo so. Comunque sì. sono tematiche interessanti. Sì. Adesso ne parliamo anche con le tue colleghe artiste, esatto, studentesse, esatto, o quello che sono, perché poi non è neanche facile definire neanche voi. Ecco. Esatto. arte contemporanea. Camilla Pavone, invece, com'è andato il tuo gruppo? Il mio gruppo l'avevo convinto ad appoggiarsi ai mezzi che avevamo, ovvero tre smartphone e un'analogica inutilizzabile. Inutilizzabile, però, certo. Però no, è vero, io molti progetti li ho fatti anche solo con un computer pagato 800 euro, che è quello che è un iPhone in mano, che fa certo, un sacco di cose. Si può fare anche solo con l'iPhone, senza il computer. Però loro non erano abbastanza convinti. Ok, e dunque cosa avete fatto? Vi siete infilati, avete riempito degli spazi? Abbiamo deciso di interpretare il free space come micro spazi da occupare col nostro corpo, quindi andare nei luoghi vuoti dell'esposizione e andarli a occupare fisicamente facendo dei video e aspettando che le persone ci trovassero. E vi hanno trovato? Sì, a me mi hanno trovato, loro non lo so. Io loro non li ho ancora trovati. Ah, ecco, dopodiché sono scappati, no? Sì. My decision, your decision, there's no common ground. I'm sick and tired myself. Yeah. Lu, che cosa mi racconti della tua esperienza, esperienza creativa? Hai fatto qualcosa di creativo qui in questi giorni alla Biennale d'Architettura? Sicuramente poteva andare meglio, soprattutto con il progetto con il progetto Biennale, sì, Biennale Biennale Session 2018 Free Space. Beh, il progetto era poco progettuale, nel senso che dovevi fare qualcosa di creativo, certo, per poi metterlo in un video da 2 minuti. Che cosa avete fatto voi? Loro hanno pensato, non dico noi perché probabilmente non sono stata troppo coinvolta. Forse perché non abbiamo specificato che i gruppi erano fatti a random, per cui non c'era alcuna progettualità neanche nell'organizzazione dei gruppi, ma questo può essere interessante. E dunque? Sì. Allora, hanno organizzato una sorta di gioco tipo campana, una sorta di percorso che doveva essere fatto da chi camminava per strada, o meglio, prima la gente doveva accorgersi che esisteva quel percorso e dopo loro per lo più filmavano le reazioni. Da quello che ho capito, diciamo, la progettualità dei tedeschi è più finalizzata all'azione, quindi volevano proprio capire ciò che accadesse nello spazio, le reazioni delle persone, ma probabilmente non hanno i mezzi per creare delle vere e proprie reazioni. E loro lo possiamo chiedere all'originatore di tutto questo, che è Martin Kim, ecco, professore dell'Università di Mannheim, che ha concoctato tutto questo progetto. Martin, Io non dico niente senza mio avvocato. Fantastico. how did you think of doing this workshop? I mean, what made you want to think about to get like 80 students from Germany and get them to the Biennale of Architecture and tell them to do something creative? I thought we would be 60. Oh, okay. Pensavo che... Cioè, la mia domanda è stata: come ti è venuto in mente di chiamare 85 studenti di 3 università tedesche, portarli alla Biennale dell'Architettura e dirgli fate qualcosa di creativo? E la sua risposta è stata: pensavo saremmo stati in 60. So you weren't 60, but you were 85. But the point is, did they do something creative? I don't know. I hope so. Ok, la mia domanda è stata: hanno fatto qualcosa di creativo? E la sua risposta è: non lo so, vediamolo, vedremo domani, perché domani ci sarà il risultato finale. But what is it for you to do something creative? What does it mean for you to do something creative? Oh, that is such a mean question. Yes, it is. I know. Is it something out of the norm, something creative, you think? Something new. Okay. Something which wasn't there before. Okay. A new solution. Oh, that's a good thinking around corners. That's a good answer. Lui dice che qualcosa di creativo per quel che lo riguarda è qualcosa di nuovo, qualcosa che non è mai stato fatto prima, e un modo per aggirare gli ostacoli e girare attorno agli angoli. Thank you, Martin. Thank you for coming. Dice grazie a te per essere venuto. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow up. How do you move in a world with fog that's always changing things? Makes me wish that I could be a dog. When I see the price that you pay, I don't wanna grow up. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna grow up. Seems that folks turn into things that they may. The only Cox spaziale. Han Jung Wang, qual è la cosa più creativa che hai fatto in questi giorni? Ancora niente, però io penso cercare qualsiasi materiale, oppure come, sì, qualsiasi materiale per più utile per futuro. Ma la tua idea di creatività qual è? Pensi che la creatività debba essere per forza materiale o può essere anche solo nella nostra testa? No, per usare materiale. Materiale? Sì. Come l'acqua, quale materiale da natura. Della natura? Sì, usare natura e poi cambiare da qualsiasi utile per giorni. In che senso? E cambiare questi materiali da natura e poi cambiare questi cose a qualsiasi adesso non c'è, però in futuro magari è più utile per noi. Ah, ho capito. E dunque ti è piaciuta questa biennale? Sì, giusta, perché ho visto c'è tante cose interessanti, come dietro c'è una, come dice, muro, però in acqua. Un muro di acqua? Sì, bello, muro di acqua. È vero, sì, giusta, questa. Per cui ti fanno pensare a come poter utilizzare i materiali nel tuo lavoro? Sì, però ho visto questo muro e ogni magari 5 o 10 minuti rinnova. Sì. Quindi magari anche utile per, come dici, anche tipo utile per in futuro come una porta, porta per utile. Sì, mm-hmm. Una porta vera, una porta reale fatta di acqua. Sì, sì. Bello. Sì. Grazie. Prego. Lucia Tarozzo, qual è stata la cosa più creativa che hai fatto a Venezia in questi giorni? Credo prendere il treno. No, non è vero. Prendere il treno. E tutte queste fotografie che stai facendo? No, mi sono sentita molto meglio quando ho visto l'organizzazione dei tedeschi. Quando ho avuto a che fare con loro, mi sono sentita sollevata di non essere come loro. Ah, ok. Questa è la cosa migliore, credo, in questi giorni. Discriminante, perché? Che cosa non ti è piaciuto del... ti stanno telefonando? La loro malorganizzazione, il loro fancazzismo nato, il loro bisogno di prendersi un caffè ogni 3x2 e... Vabbè, sei stata... Sei stata fortunata perché ti sei unita al gruppo meno tedesco in assoluto, perché alcuni altri invece sono stati ostracizzati perché sono andati a mangiare. Ho apprezzato anche l'accademia, la mia accademia. La Nel tua vederla accademia. La loro, ho apprezzato la mia. Ah, ecco. Quindi sì, mi è servito. Bene, beh, comunque è un'esperienza interessante, no? Anche se può essere, tra virgolette, fallimentare. A suo modo. Comunque diciamo tu così. Hai ribaltato la domanda, io volevo parlare di te, invece tu parli di altro. Non so, manca ancora un giorno e mezzo. Un giorno, quindi ho tempo ancora un giorno. Per fare qualcosa di creativo. Esatto. Ok, ma secondo te che cosa vuol dire fare qualcosa di creativo? Qualcosa che in parte ci appartenga e in parte da cui traiamo ispirazione o che ci rappresenti. Quindi che non si allontani di per sé da quello che noi riteniamo collegato a noi o comunque in parte nostro, e unirlo a qualcosa che prima di allora non ritenevamo magari consono alle nostre idee o comunque vicino a quello che noi crediamo. Tu sei venuta già 3 volte alla Biennale di Architettura di Venezia. Come vedi questa rispetto alle altre? Diciamo con occhi diversi. Sì, prima sono venuta con l'idea di vedere la parte architettonica, adesso guardo la parte più forse creativa, meno scontata e non sicuramente quello che uno potrebbe aspettarsi quando viene alla Biennale di Architettura. Quindi non le architetture, i modellini così, ma quello che magari c'è dietro, quello che viene proposto in una parte poco visibile. Anche la parte allestimento, penso che ci sia tantissimo da imparare nel mondo dell'arte, sull'allestimento degli architetti, del resto è la loro materia. E su tutto, sulle locandine, dalle scritte, dalla presentazione. Quindi quello guardo io, ecco. Ok, è certo, perché tu sei interessata alla grafica. Sì, diciamo sì. Che ci stiamo provando. È il tuo campo. Dai, abbiamo ancora un giorno. Vediamo cosa ci propone. Bene, grazie. Yeah. You call me from underneath the sheet. Me a come fi check you, me a go buck his speedometer. Tell me that your body in a heat. Something like a cold gets you, my one squeeze you. Woman, the way you moving on your feet. Any style where you want, that me a feature. Baby, love the way you dance for me. Baby, love the way you dance for me. I love when you get on for me. The same way you give me is like a fantasy. Oh, I love when you get on for me. I saw you bad, baby. And she say, agony, don't you stop, why you alone? We a make love, not even take off no clothes. On the dance floor, she want climb the bamboo. So me wake up her body like a mountain. Blow it up some peanut, softly gin, ginger, affy blend. Enough style, wild out. Oh man, I love the way you wild out. Dance lambada, I'll make your body dance lambada. Sail it, go on, back it up. Serena, white wine, sangria. Turn it round, do the salsa. You know I love it, so I love it, so I dance lambada. I make your body dance lambada. Love it when you, your body on mine. Dance lambada. Yeah, yeah. Dance lambada. I make your body dance lambada. Dunque, Lucia Cammarata, cosa hai fatto di creativo in questi giorni, a parte un sacco di foto? Sono andata a cercare tutte quelle robe un attimino più marce per tirar fuori qualcosa di buono. qui a Venezia tutto si corrode, è tutto abbastanza marcio, per cui hai fatto poca fatica. Tutto si corrode, tutto si sgretola e mi piace questo, mi piace il segno del tempo sulle cose. Beh, qui a Venezia è abbastanza evidente. Ma dunque, come in questo workshop, cosa hai combinato? Sei stata, il tuo gruppo? Gruppo perché avevano troppa fretta di sbrigarsi. Io credo che invece un atto creativo abbia bisogno anche di essere sviluppato in maniera intelligente, pensata e coerente poi con quello che è il concetto che si vuole sviluppare. Ma infatti forse una delle cose che è saltato fuori è proprio questo, che alcuni l'hanno preso proprio come un compitino, un qualcosa da fare, per cui prima si fa e prima ci se la sbriga. Sì, è una cosa da fare, esatto, da fare di fretta, perché poi c'è molto tempo libero da passare. Certo. Beh, in un posto come Venezia comunque il tempo libero ci sta. Sì, però Venezia regala anche tanti spunti, quindi perché sbrigarsi, avere questa fretta nel portare a termine qualcosa, se invece Venezia ti può regalare così tanti spunti anche in momenti magari più inaspettati, dove non stai veramente cercando qualcosa, ma un'intuizione, un segno, un oggetto, un dettaglio ti possono regalare invece qualcosa di molto più creativo rispetto a quello che magari stavi già immaginando, stavi già pensando. Pensiero tangenziale, naturalmente, ma io ti conosco come scrittrice molto creativa, ma tu scrivi anche poesie? No, in realtà no. Scrivo ogni tanto. Scrivi pensieri. Prosa poetica? Pensieri, sì. Molto astratta, come l'hai definita tu. Sì, effettivamente sei piuttosto astratta, ma ti viene così naturale che mi sembra difficile farti cambiare strada, e poi quasi inutile, insomma, funziona così. Sì, io amo spiegarmi attraverso le metafore, mi piace molto la metafora. No, effettivamente spiegare come fai tu l'arte in maniera poetica paradossalmente ci aiuta ad avvicinarci ad essa. Certo, perché soprattutto l'arte credo che sia appunto sentimento, pensiero, un po' come l'amore. What's the worst thing that could happen? Benissimo, e dunque come è solito per Coxo Spaziale non abbiamo assolutamente cavato un ragno dal buco, poi non so perché si dica cavare un ragno dal buco, ma non importa, e non abbiamo capito tanto di quello, anzi non abbiamo capito pressoché niente di quello che è appunto la creatività, ovvero fare qualcosa di creativo. Che cos'è fare qualcosa di creativo? Non lo sappiamo, è qualcosa che viene da noi in maniera, tra virgolette, forse originale, cosa che appunto è anche la parola originale, poi bisognerebbe rivedere, bisognerebbe capire che cosa significa originale, ovvero mai stata fatta prima tendenzialmente. Adesso non ho davanti a me il dizionario Treccani perché sto per investire una pedona, sono alla guida, e così concludiamo questa puntata un po' viaggiante tra Venezia, Bologna e altre parti del mondo di Coxo Spaziale. Come al solito vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle 20 alle 21, sempre su Radio Città Fujiko 103.1. Mi raccomando, non mancate, perché venerdì prossimo saremo live io e Fedra con anche il fantastico DJ Cortellazzo, e ci sarà la possibilità di intervenire dal vivo. E vi lascio come al solito con le parole lungimiranti del nostro direttore. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale, ci sentiamo venerdì prossimo sempre alle 20. Ciao. Now try to make it better.